Pronto? Oh, ciao, come stai? Sì, stavo registrando, stavo quasi per registrare, sì. Sì, Morti di Bestemmie Summer Radio, terzo episodio. No, no, stavolta vogliamo fare una cosa diversa, non puntiamo più a fare. Sì, è perché sennò poi mi dicono che faccio fanservice. Non posso fare remake tutte le volte, devo un po' variare. Sì, questa puntata la dedico alle donne, perché è il vero motore del mondo la patata, lo sappiamo. Sì, esatto. E, guarda, ti faccio sentire con quale pezzo avevo intenzione di partire, guarda. Nota non è proprio giusta, giusta, ma però io sono certa che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, stanco a sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su. Brava, brava, come sono brava, brava. Certo, se qualcuno vuole proprio, proprio pignolare, forse qualche cosa non so fare, ma sicuramente sì. Non può essere una cosa che non ha nessun valore se vogliamo ricordare come me nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, vedi, ricordate quelle note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su. Su, su, su, come due note che volano nel cielo. E tutti sanno che ho tanto di quel fiato che neppure una balena può resistere sott'acqua stando senza respirare tutto il tempo. Ma che a dirlo siete voi, voi non lo sentite questo povero mio cuore che fa bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Brava, brava, brava, brava, brava. E con questo capolavoro di Mina, l'impareggiabile, l'impagabile, l'indistruttibile, l'invincibile, l'immarcescibile, e diamo inizio a questa terza puntata di MDB Summer Radio. Sigla! MDB Summer Radio. Ebbene sì, questa puntata la dedichiamo alle donne. Il vero motore del mondo è la fica. Proprio, diciamocelo così, la fregna. Infatti, questa puntata si intitola Scerceglia Fregna. Perché? Perché di sì, perché dobbiamo distaccarci un po' da tutto questo heavy metal che vi mettevo prima. Anche perché poi mi si diceva che facevo fanservice. Mi si diceva che lo facevo tutto solo per prendermi degli applausi, dei baby, dei bravo, eccetera, eccetera, eccetera. No, questa volta cambiamo completamente rotta e partiamo invece con qualcosa di un pochettino più delicato, un pochettino più alla portata di tutti. Ed è per questo motivo che vi faccio sentire tra un attimo solo, appena mi parte la registrazione, questo bellissimo disco di Jain. Questa è una ragazza che è nata nel 92 ed è francese e ha scritto questa canzone, molto pop, la sentite un po' dappertutto, è un video molto bello. Blackburn, I'm so long without you, boy. Today and now I'm here. Call my baby, call my, we got off. show you the world today, today, today. Come, come, my baby, come, mommy, go off your nightmares today, today, today. Come, come, my baby, come, now we live it forever today. Come, come, my baby, come, now we not let you go. Ebbene sì, ebbene sì, ebbene sì, dobbiamo dirlo, questa puntata ha un taglio completamente diverso. Mentre nelle puntate precedenti vi mettevo un po' tutto quello che mi piaceva e soprattutto ve lo mettevo con un sacco di grinta, questa volta invece l'idea è quella di rilassarsi, stare tranquilli e ascoltare queste delicate voci femminili. Abbiamo iniziato con Mina, che insomma con il suo pezzo da virtuosa, il pezzo da 90, adesso ve lo tiro fuori così vi faccio vedere che siete tutti delle merde. Infatti la mia ragazza, quando le ho detto che avrei iniziato questa puntata con Brava, finalmente ha detto: ah, non c'è gente che rutta. No, non c'è gente che rutta, c'è Brava. Ah, lei mi ha fatto: ah sì, il pezzo che Mina ha fatto per dire a tutte le altre donne siete tutte delle merde, io sono bravissima. Proprio usando questo tono di voce. Purtroppo non ho fatto in tempo a registrarla, per cui ve la beccate così. Passiamo invece a un pezzo successivo. Io continuo a mettervi cosa che a me piace, che vi faccio scoprire più o meno, e poi potete anche essere consci di dirmi sì, vi va bene, no, non va bene. Anche perché in ogni puntata esploreremo delle cose completamente differenti. E il pezzo che viene adesso, invece, partendo da Mina, appunto, virtuosismo totale in un momento in cui non si poteva fare finta, cioè, o eri capace di cantare o non cantavi. Invece è un pezzo che fa della ricerca tecnologica il suo punto forte, perché nonostante la cantante sia una cantante molto brava, questo pezzo è stato creato essenzialmente utilizzando un harmonizer al computer, in modo da ricreare mille voci sulla base di un singola nota, sulla base di una singola linea vocale. Il pezzo è molto famoso, lo conoscete perché nel 2005 era stato anche pubblicità di un'automobile. Where are we? Sentite? What the hell? Ditemi che non ve lo ricordate, dai. The dust has only just begun to fall. Crop circles in the carpet, sinking feeling. Spin me round again. Sentite, l'uso dell'harmonizer viene enfatizzato, infatti non ci sono due voci che si sovrappongono, tre voci, ma è semplicemente una singola voce che viene rielaborata per creare degli accordi, senza accompagnamento di nessun tipo. See. Dreams and sewing machine, you'll catch me around here. What you say? Oh, that you only meant well, well, 'cause you did. What you say? That it's all for the best, 'cause it is. What you say? That it is what we need. You decided this. What you say? What did she say? Came falling out your mouth. Mid-swing talk news. People were cut off. Speak no feeling. No, I don't believe you. You don't care a bit. You don't care a bit. Someone came falling out your mouth. Mid-swing talk news. People were cut off. Speak no feeling. No, I don't believe you. Bene, bene, bene, questo era Imogen Heap, il cui vero nome è Imogen Jennifer Jane Heap, non ho idea di chi sia, fondamentalmente è una ragazza londinese, nata ben 39 anni fa, e insomma, credo che questo sia il pezzo più famoso che è venuto fuori dal suo genere alternative rock elettronico, e beh, insomma, è uno dei pezzi più belli che conosco cantati da una donna, perché è completo nonostante le manchi a questo pezzo praticamente qualsiasi cosa. Trovo che sia delicato e struggente insieme, per cui ve lo siete beccati. Adesso invece torniamo a un pezzo che non avevo messo la volta scorsa, cioè il pezzo dance della settimana. Oddio, della settimana, perché diciamo che fondamentalmente cerco di metterci dentro questo, di fare una puntata di Morti di Bestemmie Summer Radio una volta alla settimana, non ci riuscirò mai, ma vabbè, finché ci riesco, godetevi questa cosa. E questo è un pezzo che credevo che fosse molto più recente, in realtà è del 2003. Ed è un pezzo che inizia ovviamente come tutti i pezzi R&B degli ultimi 30 anni con un qualcos'altro rubato, e infatti la parte di corno, di horn diciamo, è del brano Are You My Woman, Tell Me So, ma chi se ne frega di questa cosa. Lei è la fantastica e assolutamente inutile Beyoncé. Notate che la bellezza di questa canzone è tutto in questo giretto qui. Pa pa pa pa pa. Oh oh, no no. Oh oh, oh oh, oh no no. Oh oh, oh oh, oh no no. Oh oh, oh oh, oh oh, oh no no. Questo giretto qui che non è neanche originale, per cui vi fa capire quanto il rhythm blues and pop siano una immensa effimerità. E sto cercando di essere molto educato, eh? Infatti possiamo anche parlare su lei che fa tutto questo pseudo rap, pseudo cosa, chi se ne frega. Però al ritornello, oh no no, oh no no. When I talk to my friends so quietly, who we think he is? Look at what you did to me. City shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew, it's the beat in my heart gets when I'm with you. But I still don't say, just like you look, do I know what else? Got me looking so crazy right now, you're lost. Got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now, you touch. Got me looking so crazy right now. Got me hoping you pay me right now. Got me hoping you save me right now. looking so crazy in love. Got me looking so crazy in love. Questa è una canzone che mi mette allegria, devo dire la verità. Cioè, è una canzone di Beyoncé, per cui già questo potrebbe essere un po' problematico. Però mi mette allegria, devo dire che mi piace. E nonostante, ripeto, nonostante venga nominata come la canzone del decennio scorso, cioè in tutti gli anni 2000 questa è la canzone del decennio, devo dire che non mi dispiace. Detto questo, una parte di me vorrebbe bombardare 20 anni fa MTV, proprio bombardarle con la bomba atomica. Tonica, come l'acqua. Senti che bel bridge. So crazy, my baby, I'm not myself. Lately I'm foolish, I don't do this, I've been playing myself. Baby, I don't care. But your love got the best of me, and baby, you're making a fool of me. You got me strong and I don't care who sees. Baby, you got me so crazy. Così vi beccate anche il sottoscritto che fa un po' di acutini. Gli acutini bruttini. Lo so, è una roba brutta tutta questa. Però che cavolo se ne frega. Io sono molto contento. Looking so crazy in love. Crazy in love. E la canzone man mano sfuma, grazie a Dio, perché devo dire che parlarne così e scoprire che è la canzone più amata degli anni 2000 mi fa un po' come dire, sorgere la bestemmia spontanea. Dato che questa trasmissione si chiama Morte di bestemmie Samma Radio, nonostante ci sia la parte Samma Radio, la parte bestemmie ci sia, c'è ancora tanto. Bene, abbiamo terminato questa meravigliosa canzone di Beyoncé e passiamo invece adesso alla canzone successiva. A questa canzone sono molto legato. La prima volta che l'ho sentita è stata a un keynote di Apple mille anni fa. Pensate, una canzone del 2007 ed è stata utilizzata per dimostrare i nuovi codec video di compressione di QuickTime, quando ancora Apple ci credeva, oppure ci credeva a farci credere che insomma, che era ancora puntata e pensata e amava il mercato dei professionisti. Beh, insomma, questa è stata la canzone che hanno dimostrato, e ovviamente in streaming non si capiva la differenza tra il codec precedente e quello attuale, però devo dire che la canzone mi è sempre rimasta nel cuore, e al tal punto che da 2 anni è la colonna sonora ufficiale del reel di Delta Frame, la mia casa di produzione. Come vi ho detto nella prima puntata, ci sono 2 reel. Uno è il reel oscuro, quello in cui utilizziamo Nightwish, Nemo dei Nightwish. A proposito, errata Cocige, avevo detto che era la cantante della canzone Nemo, era la seconda cantante dei Nightwish. Invece no, mea culpa, non era la seconda ma la prima cantante, la prima storica. Ho ricevuto tante bacchettate sulle mani e sul pene, è vero, colpa mia, ripeto, però i Nightwish non è che mi facciano impazzire, per cui sono anche tenuto a non sapere un cavolo. Dicevo, questa è Sara Barrier, che è una ragazza californiana, e nel 2007 ha tirato fuori questa canzone. Non so cosa abbia fatto, però devo dire che questo pezzo qua mi piace talmente tanto che ve lo faccio sentire così alla bene, ed è tutto essenzialmente basato su questo giretto di pianoforte. Vai Sara! Head underwater and they tell me to breathe easy for a while. The breathing gets harder, even soon to see if I'm happy in your hands. I'm unusually hard to hold on to. Blank stares at blank pages. No easy way to say this. You mean well, but you make this hard on me. I'm not gonna write you a song, 'cause you asked for it, 'cause you need one. You see, I'm not gonna write you a love song, 'cause you tell me it's make or break in this. If you're on your way, I'm not gonna write you to stay. All I have is leaving. I need a better reason to write you a love song today. invece è una canzone delicata, dolce, a me piace tantissimo. Anche questa mi mette allegria. La canzone dice: non ti scriverò una canzone d'amore, e la risposta potrebbe anche essere: esti grandi cavoli. E, però è bella, per cui ce la teniamo, ci piace e le vogliamo molto bene. Questa piccola codina malinconica chiude in minore la canzone, a parte l'ultimo accordo. Salutiamo Sara Barillet o Barillès e andiamo ad aprire con un gruppo invece un po' più metallozzo che a voi vi piace tanto. Loro sono olandesi, per cui sempre al nord dell'equatore della Germania, diciamo, per cui è metal nordico, e come tutti i metal nordici che si rispettino hanno una cantante femmina. Loro sono Within Temptation e questa non è la mia canzone preferita loro. La mia canzone preferita loro è In Our Solemn Hour, o Our Solemn Hour, non mi ricordo più come cavolo, sì, perché appunto mi ricordo la canzone ma non il titolo. Questa invece è Faster ed è una canzone bella allegra, bella bella tirata, bella bella grintosa. Avrei potuto metterla dentro la volta precedente, ma me la sono riservata per questa perché, nonostante appunto la cantante, che è un bel pezzo di figliola, sia anche abbastanza brava, non è, insomma, diciamo che mi piaceva l'idea di tirar fuori qualcosa di molto femminile, forse perché appunto è un gran bel pezzo di figliola, e vedere dal vivo è anche molto interessante. Non è secondo me bravissima a stare sul palcoscenico, però essendo un gran bel pezzo di figliola, e vi consiglio di andarla a guardare, diciamo che vi prende per bene, per cui dall'album Unforgiven vi lascio ai Within Temptation. Fuck yeah. Fire running wild. qui sul fatto che lei è figa, non è figa, insomma, diciamo che non ci si potrebbe essere molto da discutere, però bisognerebbe capire, è più o meno figa di Cristina Scabbia, che è la cantante dei nostrani Lacuna Coil? Secondo me Cristina Scabbia è una che si vende veramente bene, è una bella ragazza, a notare, è una che si vende molto bene, ma Sharon è più donna, e siccome a noi ci piacciono le MILF e lei è madre di almeno 3 bambini, noi dedichiamo a Sharon Denadel, cantante dei Within Temptation, il nostro amore e la nostra subitanea erezione. Soletto di chitarra, delicato, quasi semplice, quasi buttato lì per la serie, tanto noi abbiamo la cantante, abbiamo Sharon, a noi che cazzo ce ne frega delle altre, ci abbiamo Sharon, perché ricordate questa puntata si chiama Cherche la Fregna, comunque. Tutti insieme, dai! Perché lo so che quando sentite la mia voce che ci canta sopra vi stridono un po' i neuroni, un po' come dire, cazzo è sto deficiente che canta, lo so, non me ne frega neanche tantissimo, perché diciamocelo, questa è la mia trasmissione, se volete una trasmissione migliore fatevela voi, o ancora meglio speditemi file così io ve la racconto man manino. Bene, ok, passiamo adesso invece da questo, questo pezzo bello, bello cattivello a un pezzo della mia amica Adele, giovane ragazza di 28 anni che esordisce a 19 anni con l'album 19, poi 2 anni dopo con l'album 21 e poi con l'album 25, insomma fondamentalmente diciamo che il numero dell'album corrisponde alla sua età, mentre il nostro caro amico Jovanotti fa corrispondere il numero dell'album all'anno in cui esce, tipo Lorenzo 2422, perché ce l'avremo ancora in giro a cantare l'ombelico del mondo anche quando sarà più che maggiorenne. Allora, che dire, vi faccio sentire Turning Tables, una delle mie canzoni preferite, la canzone preferita di Soldato Ansia, la mia cara amica Soldato Ansia, che ha in poi ispirato questa playlist di giovani donne che cantano giovani canzoni d'amore e non solo. Signore e signori, Adele con Turning Tables. Enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. I can't keep up with your terms. I won't let you Questa bella codazza chiudiamo anche l'album, chiudiamo anche Turning Tables di Adele. Come vi ho detto, questa è stata sarà una puntata un pochettino più delicata del solito, diciamo che io parlo ma poco, diciamo cerco di non sovrastare troppo queste bellissime canzoni cantate dalle giovani fregne, come si suol dire. Adesso invece dovremo passare a un'altra canzone di un'altra donna, ma però il problema è che questa, la canzone parodistica della settimana, non ne ho trovata una che mi piacesse molto cantata da donne, ma ho trovato una canzone sulle donne, ed è per questo motivo che vi faccio sentire questo, che è uno dei pezzi più belli di Cicciput, l'album di Elio le Sere Tese di un sacco di tempo fa. Dovete troppo sentirlo perché è un inno alla bellezza femminile e al potere potenziale della patatetta. Dopo questa dolcissima introduzione francese da crooner da piano bar, meraviglioso di un giovane uomo anziano che cerca ancora la figlia, ma la figlia è troppo giovane, non ci va con lui. Inizia questo pezzo meraviglioso con un sapore un po' più funky, un po' più da disco anni 70. Un disco, una canzone completa trasformazione come quasi tutte quelle di Elio e le Storie Tese. Lavoro Pas de Boisnard. Questa coda che fa ricordare Monte Carlo, non so perché. Voilà. Les garçons anciens c'est moi. Caipirosca dei tempi. Ok, je suis con Johnny Hallyday. Sentite adesso. Madame accepte ma super baguette. La super baguette che sei dangereuse. Voilà, les garçons anciens c'est moi. Madame accepte ma baguette. Privé, à l'homme couchant dans la maison, allez coucher dans le privé, à l'homme couchant. E adesso beccatevi il coro. Viva Bernard, il paye les garçons, il paye les lesbiches, il paye tout le monde. Viva Bernard, il paye les garçons, il paye les lesbiches, il lèche la fiche à tout le monde. Viva la Bernarda che piace ai ragazzi, che piace alle lesbiche, che piace a tutto il mondo, arte. Viva la Bernarda che piace ai ragazzi, che piace alle lesbiche, lecca la figa a tutto il mondo. Lesbisca. Questo è un capolavoro di funk e soprattutto il testo mi fa morire da ridere. Una canzone bellissima, bellissima, bellissima, bellissima, che non so descrivere, cioè secondo me è arte pura. E anche se avevo promesso di non mettervi Elio e le Storie Tese, ve li ho messi, ma diciamo una canzone un po' meno famosa delle altre, anche se secondo me, se siete dei fans di Elio e le Storie Tese, sicuramente conoscete Vita, Morte e Miracoli di ogni singola canzone, anche e ben più di me. Adesso invece passiamo a una canzone di una cantante che io adoro, che è Tori Amos. Questa è una canzone del primissimo disco, che era Little Earthquakes, che è un disco che ha più di 20 anni. Non ho trovato la versione originale, ma ho trovato la remaster version. Attenzione che su Spotify, se cercate Winter, che è la canzone che ascolterete tra poco, troverete la versione, una nuova versione che lei ha reinciso per l'album che è Gold Dust. Io non l'apprezzo tanto, cioè è sempre una canzone bellissima, però non l'apprezzo al 100% perché mentre nella versione che vi faccio sentire rimasta da adesso hanno diminuito un po' la dinamica del pianoforte, per cui è sempre in prima linea, mentre nel primo disco alcune note proprio erano quasi perse, perlomeno la voce è rimasta identica, mentre nell'ultimo pezzo è diventato quasi un pezzo pop. È rimasto inalterato lo spirito, ma è una canzone che ha perso molte dinamiche. Secondo me un pezzo del genere necessita di tanta dinamica, perché è un pezzo che ha degli alti, dei bassi, dei piani, dei forti. Lei è una pianista, pianoforte, e tale va come tale va rispettata, perché è proprio il contrasto, la delicatezza di alcuni tocchi e la forza di altri che proprio in un pezzo del genere rendono il tutto anche più drammatico. Ma ascoltiamo la voce di Tori Amos. Snow can wait, I forgot my mittens. Wipe my nose, get my new boots on. I get a little warm in my heart when I think of winter. I put my hand in my father's glove. I run off where the drifts get deeper. Sleeping Beauty, it trips me with a frown. I hear a voice, you must learn to stand up for yourself, 'cause I can't always be around. He says, when you gonna make up your mind? Una canzone molto delicata con un pianoforte in prima fila accompagnato da un'orchestra che però sta molto dietro, rinforza soprattutto le parti basse dello spettro e incrementa la drammaticità della canzone stessa, però una canzone in cui c'è Tori Amos e il suo pianoforte, funzionerebbe anche senza, anzi sarebbe quasi più minimalista, direi un pezzo meraviglioso. Qui ci avviciniamo verso il finale, c'è anche una piccola parte di percussioni che rinforza leggermente la parte sinfonica, che si alza sempre di più e incrementa la potenza sonora e l'intensità della canzone fino a questo gran finale che arriva. Dopo aver parlato prima dei Within Temptation, passiamo adesso a un gruppo che è nato da una costola di loro, dal loro ex tastierista che se n'è andato perché non stava molto bene, che ha fondato i D-Lane, o non so come si pronunci, D-Lane, in qualche modo. Loro sono ancora olandesi, fanno symphonic metal un po' gotico, diciamo, un po' più gotico di quello dei Within Temptation. Anche loro hanno una cantante femminile, e questa è una canzone che non è una canzone di metal, ma è una canzone molto dolce che mi piace farvi sentire, che si chiama Start Swimming. I'm waiting for another day. I'm waiting for the clock to reach the 6 and 12. Waiting for a holiday. I'm waiting for myself. I'm waiting for another day. I'm waiting for the clock to reach the 6 and 12. Waiting for a holiday, I'm waiting for myself. And all I seem to hear is stop, stop, I'm catching up on you. Don't leave me behind. I can't see a soul. Se vi state chiedendo che aspetto ha la cantante che si chiama Charlotte Vessels, devo dire che secondo me si piazza terzo nella classifica delle Gothic Girl di oggi, dove per me prima c'è ancora la cantante dei Within Temptation e dopo la scabbia dei Lacuna Coil. Però insomma, sapete, queste cantanti gothiche alla fine uno dice sempre, ma sì, una botta glielo do anche. In un momento di crisi, o in un momento di crisi mistica, o in un momento di crisi musicale, direi. E adesso sta per iniziare la parte finale che, dal mio punto di vista, musicalmente parlando, mi ricorda i vecchi Amorphis, con certe code lunghe tipo quella di The Orphan. Insomma, le code lunghe dell'album Elegy, che vi farò sentire un'altra volta probabilmente. Adesso siamo arrivati, anche con un numero di canzoni ben superiore, all'ultima canzone della giornata. E perché sì? Perché insomma, dopo un po' le cose belle finiscono. E l'ultima canzone è una canzone che io ho adorato. Non è la mia canzone preferita di questo gruppo, non è la mia canzone preferita di questo album, che trovo il loro album assolutamente migliore, l'album più genuino, più violento, più particolare, in cui si sentiva essenzialmente la loro impronta, mentre dopo si sono un po' persi perché sono diventati troppo ricchi e troppo famosi e un po' troppo pop. La canzone è una canzone live, tra l'altro, perché non l'ho trovata non live, e siccome mi piace darvi le playlist su Spotify, ho trovato la versione live di questa, che è It Takes Blood and Guts to Be the School But I'm Still Just a Cliché, dei Skunk Nancy, quando gli Skunk Nancy erano veramente loro. Adesso un attimo di pausa, ma sentite che violentezza. Questo poi sono diventati un gruppo pop, mentre qui erano ancora un po' belli cattivi. Beccatevi live, live. It takes blood and guts to be this cool, but I'm still just a cliché. It takes blood and guts to be this cool, but I'm still just a cliché. I see. Good. Questo bellissimo codazzo degli Skunk Nancy, dopo un bel po' di canzoni, ben più delle solite 7, anzi oggi ce n'erano 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, perché non sono riuscito a raccoglierne meno di 12. Vi do l'addio dopo questa puntata che non avete idea di quanto è stato difficile registrarla. Per fortuna che non è stata live, altrimenti mi sarei buttato a pesce in una vasca di piranha, perché è stato difficilissimo. Vi rinnovo l'appuntamento a la prossima volta che ci sentiamo, e vi rinnovo l'appuntamento a scriverci, a dirci cosa ne pensate. Come scrivermi? Potete contattare Morti di Bestemmie in mille modi, che ne so, andando sul sito di videoludica.it, oppure sulla nostra pagina Facebook su Facebook Morti di Bestemmie, o seguendoci su Twitter. Morti di Bestemmie dovrebbe essere in qualche modo il nostro nickname, ma poi insomma, se ci cercate trovate l'immagine del teschio che ride con le fiamme, insomma una cosa veramente tramarrissima. E beh, insomma, diciamo che diamo un addio a questa estate bella, calda e calorosa, anche se altre puntate verranno, però MDB Summer Radio continua e continuerà, perché la prossima volta parleremo invece di musica un po' più complicata, perché parleremo di tempi dispari, tempi composti, tempi moderni, diciamo. Però questo è un appuntamento alla prossima puntata. Per oggi con questo Cherche la Fregna è finito, vi rilascio la sigla finale dei Sixth. Ciao! This podcast has been produced with Pod Cleaner.